dietro te porti segni di amori feroci, di sentimenti confusi, di niente che va. Apri la porta, vedrai chi c'è. Sono io qui per te. Quando il silenzio spaventa e la notte è più fonda, e dal soffitto le ombre ritornano giù, è lì al tuo fianco che io sarò, se vorrai ci sarò. Di sguardi silenziosi io ti spoglierò, con forza e con dolcezza ti difenderò, io non ti lascio andare, e i tuoi capelli lunghi io risalirò, fino ai pensieri antichi li distruggerò, io ti saprò aspettare e ricordarti che da oggi ci sarò. Discreta compagnia, complice amica mia, io ti proteggerò, comunque ci sarò. E costruirò con le mani le ali al tuo volo, che l'incoscienza di un altro ha spezzato per te. In capo al mondo, se mai tu andrai, ci sarò, se vorrai. Di un desiderio nuovo ti rivestirò, con forza e con dolcezza a me ti stringerò, io non ti lascio andare, i tuoi capelli lunghi scale sogni miei, per arrivare in cima alle tue fantasie, io ti saprò aspettare e ricordarti che oggi ci sarò, e poi domani, e poi in tutti i giorni tuoi, che tu ci creda o no, comunque ci sarò. Na, na, na, na, na.